com'è che è nata? Perché una università decide di produrre dei podcast che possono essere scaricati gratuitamente? L'obiettivo è essere al passo con i tempi e andare verso l'utilizzazione di quegli strumenti che sono familiari ai ragazzi. L'idea fondamentale è che tutto è completamente gratuito ed a disposizione di tutti, quindi ha anche una grande funzione sociale. Noi arriveremo in breve a 300 corsi scaricabili e che riguardano tutte e 13 le facoltà della Federico II. Questo è un progetto finanziato dalla Regione Campania e che ha visto impegnato uno staff capitanato dal professore Carise, che ha una competenza specifica su questo argomento. Senta, Noi rettore. registriamo un numero enorme di ingressi già sul nostro sito. Adesso con lo smart su iTunes noi siamo in condizione. È chiaro che questo non sostituisce la didattica tradizionale, questo lo dobbiamo dire chiaramente, è un ulteriore supporto, no? 100 anni fa non esistevano i proiettori, poi si sono usati i proiettori. Noi inseguiamo e cerchiamo di rimanere al passo con i tempi moderni. Professore, ma è stato criticato per questa scelta? Nel senso che è curioso, insomma, che un'università, anzi la prima università, da quello che so, decide di fare questo tipo di operazione. È stato criticato dai suoi colleghi rettori? L'hanno dato del modernista? Se lo hanno fatto senza che io li sentissi, io non credo perché nulla togliamo a nessuno, noi diamo un supporto e vede la dimensione importantissima è che tutte queste lezioni, tutti questi corsi, le library, abbiamo una library che è eccezionale, sono a disposizione libera perché in fondo il sapere deve essere di tutti.